ho comprato 620 cover, che per le occasioni Pavillon e Rolex, che per non graffiarti ho preso 6 calzini con morti secche e fianche, tanti cuoricini, 90 auricolari, tutti senza fili. Il Bluetooth porta il cancro al cervello, ma è più shock che scopare nel lavello. È più cool dei daiquiri con i cili. Vivo sempre col mio cellulare, se me lo togli sto proprio tanto male. Voglio farmelo impermeabilizzare, così me lo porto quando faccio il bagno al mare. Vivo sempre col mio cellulare, e una canzone ora gli voglio dedicare, per dichiarargli tutto il mio amore, dirgli che è sempre un posto nel mio cuore, anche se gli fa venire un tumore. Io per te ho navigato ore per trovar suonerie da scaricare, ma costavano come un bimotore, perciò mia nonna ho dovuto derubare. Tra fricche e non ne ho quasi 100.000, a sentirle tutte ci scarico la pila. Ogni ora metto su un nuovo ronzio, non rispondo mai perché non so se è il mio, ma vivo sempre col mio cellulare, se me lo togli sto proprio tanto male. Voglio farmelo impermeabilizzare, così me lo porto quando faccio il bagno al mare. Vivo sempre col mio cellulare, e una canzone ora gli voglio dedicare, per dichiarargli tutto il mio amore, dirgli che è sempre un posto nel mio cuore, anche se gli fa venire un tumore. I giochi Java non sono la mia passione, sono un credo, una religione. Da Snake a Ball ci potrei fare un corso, gioco ore e ore anche passeggiando. Quando prendo i pali gioco al pronto soccorso, e in carrozzina gioco col telecomando. Ma da un po' ho un problemino antico, la rubrica è vuota, non ho un solo amico. Allora messaggi e video messaggi, chiamate e video chiamate, quadriband e altri stupendi ingranaggi, mi servono meno di un pela patate. Ma vivo sempre col mio cellulare, se me lo togli sto proprio tanto male. Voglio farmelo impermeabilizzare, così me lo porto quando faccio il bagno al mare. Vivo sempre col mio cellulare, e una canzone ora gli voglio dedicare, per dichiarargli tutto il mio amore, dirgli che è sempre un posto nel mio cuore, anche se gli fa bene.